Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Se alito sulla tazza del tè... Scusa Federico, perché dovresti alitare sulla tazza del tè? Però se soffio sulla mano... Ma perché? Cosa serve? Vabbè, dai, ne parliamo dopo. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi incominciamo con un compleanno di un grande scienziato. Un grande scienziato italiano compie 90 anni. È Luca Cavalli Sforza e ha creato le basi della genetica delle popolazioni. La scuola è il luogo dove si formano le competenze delle nuove generazioni. Allora è bene che si apra concretamente al dibattito culturale. È un progetto della casa editrice La Terza. Alitate sulla mano e sentite caldo. Soffiate e sentite freddo. Come mai? È questa la domanda terribile di questa settimana che ci arriva da Luca. Nei prodotti con tecniche nanotecnologiche, cosa si deve scrivere sulle etichette? Il problema è tutt'altro che banale. Allora, Chiara Albicocco, sei stata al compleanno di un grande scienziato italiano. Sì, il 90esimo per la precisione. Pensate. Compleanno, quindi gli facciamo tantissimi auguri, mille di questi giorni, a Luca Cavalli Sforza. È uno scienziato che, vabbè, in Italia lo conosciamo tutti, un grande genetista, ma anche a livello mondiale, perché è stato in giro praticamente per tutto il mondo, tra le foreste di Pigmei e le università americane, è veramente super conosciuto. E per festeggiare questo evento, insomma, 90 anni non capita tutti i giorni di compierli, è stata organizzata una mostra che si chiama I viaggi di Luca Cavalli Sforza, ancora una volta ero io il curioso, in cui ci sono molte foto dei suoi viaggi e una parte dei racconti che sono raccolti anche nel libro che ha appunto lo stesso titolo, I viaggi di Luca Cavalli Sforza. Lo abbiamo incontrato mercoledì appunto in occasione del compleanno per fare gli auguri e per farci raccontare un pochino della sua vita, e ovviamente abbiamo incontrato anche l'autrice Elisa Frisà del libro. Sentiamo. Io sono curioso e per questo motivo ritengo che il modo per me più interessante di passare la vita è di fare il ricercatore. Ricerca di che cosa, la cambio ogni tanto quando trovo qualche cosa di più interessante di quello che sto facendo, e credo di aver concluso abbastanza sull'argomento di cui mi sto occupando a poter dire va bene, adesso lo posso lasciare almeno temporaneamente e cominciare a occuparmi di qualche altra cosa, perché è naturalmente necessario di raggiungere un minimo di profondità nella propria analisi. Nel libro ha scritto una frase bellissima che è: la foresta è una lezione di umiltà, e questa ce la deve spiegare però, perché questa l'ha vissuta. È una lezione di umiltà nel senso che ci si accorge che è talmente complicata, piena di cose inaspettate e anche difficili in un certo senso, che bisogna entrarci con un po' di intelligenza, perché c'è anche il rischio di perdersi, certo. Non bisogna farlo assolutamente, perché può costare dei reali pericoli. Lei ha fondato praticamente i principi della genetica di popolazione, ha avuto diciamo la genialità di unire due materie, due discipline scientifiche in realtà distinte, la genetica e l'antropologia. Sì, nel senso che mi interessa, uso la genetica per cercare di arricchire le conoscenze antropologiche, no? Cioè uso i metodi genetici e anche i problemi genetici per vedere questo trasporto a livello antropologico, quali sono le cose interessanti da fare. E poi ora sull'interesse, qualche cosa è abbastanza personale di solito, ma io ho l'impressione che c'è un tale numero di problemi interessanti che quelli che si trovano poi sarebbero interessanti per moltissime persone. La realtà è che l'evoluzione è difficile, anche perché noi non possiamo collocarci abbastanza fuori dal tempo, perché se potessimo seguire la storia evolutiva per un periodo molto più lungo della nostra vita, per esempio, riusciremmo certamente a raggiungere delle conclusioni più valide è più di interesse più generale. Però, insomma, la storia ci permette di tornare indietro e qualcosa riusciamo a fare. Si può spiegare in termini semplici cos'è la genetica di popolazione, quella che lei praticamente ha fondato? Beh, come io la vedo, è lo studio delle differenze tra individui, semplicemente. Quindi delle differenze che esistono a tanti livelli, non so, esistono anche semplicemente nelle facce, nel corpo, ma quelle più interessanti sono il modo di comportarsi. Fra l'altro ci sono dei rapporti abbastanza stretti anche tra l'aspetto esterno e il modo di comportarsi. In fondo, se noi guardiamo bene una persona, riusciamo a indovinare alcune cosette, no? Che possono essere interessanti. Va bene, allora mille auguri, professore. Grazie mille. Elisa Frisardi, tu sei l'autrice di questo libro, I viaggi di Luca Cavalli Sforza, che ha ispirato la mostra ospitata qui al Museo di Storia Naturale. Ecco, Elisa, tu sei così giovane, e com'è stato, insomma, raccontare la vita di un uomo così intenso, piena di esperienze, di viaggi e anche di grande scienza? Sì, Luca Cavalli Sforza è, come tutti i grandi, una persona molto semplice e un grande ottimista, e questo gli ha permesso di abbattere tutte le barriere di confine e di spostarsi dalla terra in cui è nato, da giovanissimo in Liguria, poi a Torino, a Milano, e abbattere i confini ed andare all'estero e capire da subito che ogni città in realtà è un insieme di mille informazioni da cui poter imparare. Quindi è un grande osservatore, è partito dalla natura, dalle cose semplici, per poi unire i concetti e riuscire a creare una mappa grande come quella delle migrazioni. Un'altra cosa bellissima di un grande scienziato, che in realtà mette sullo stesso livello la cultura scientifica e la cultura umanistica, creando continuamente ponti. Il libro è fatto di aneddoti e foto scattate da lui stesso durante, appunto, le ricerche su campo. Hai voglia di raccontarci qualcosa che particolarmente ti è piaciuto raccontare in questo libro? Beh, la prima domanda, abbiamo cercato di capire quale fosse il viaggio, il senso del viaggio per Luca Cavalli Sforza, e lui è un grande curioso, ma la cosa che mi ha stupito moltissimo è che la sua curiosità non è mai casuale, cioè lui sa esattamente che cosa sta cercando e dove la deve andare a trovare, e quindi il viaggio non è per lui un'occasione di svago, ma di ricerca vera e propria. Quindi lui non si perde mai, e se gli si chiede il suo viaggio preferito, lui nomina subito l'attraversamento del Sahara. Per lui è il viaggio più bello del mondo, perché lì, con queste piste enormi, lui si è confrontato con la natura, anche lì sapendo quali erano i limiti, quali erano i rischi, e sapendo che ce l'avrebbe fatta seguendo tutta una serie di accortezze, e come sempre ha portato con sé, ha condiviso anche questa cosa con la moglie Alba. Poi l'ha fatto anche negli anni successivi con i figli, ma ricorda tantissimo le strade, come racconto nell'introduzione del libro. Per lui le strade come se fossero un po' la traccia di ogni viaggio che fa. Ogni strada è diversa, ogni strada è un percorso a sé. Ecco, una curiosità per chiudere: come è avvenuta la stesura del libro? Lui raccontava un fiume di parole, tu prendevi appunti, registravi e poi cercato, insomma, di renderlo accattivante com'è. Allora, è stato bellissimo, è stata una sorta di flash che abbiamo, come se avessimo avuto 3-4 immagini iniziali da cui partire, e poi siamo andati alla ricerca dei ricordi, come se ci fossimo calati in un pozzo e cercando di raccogliere tutte le informazioni possibili. Questo è stato il nostro viaggio. Ho fatto due settimane intense di racconto, e poi io da lì ho avuto tutto il materiale da rielaborare, da riscrivere. La mostra sui viaggi di Luca Cavalli Sforza sarà visibile al Museo Civico di Storia Naturale di Milano fino al 1 aprile di quest'anno. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo arrivati al nostro quiz. Ne parliamo fra poco di queste cose, perché ormai lo sapete, no? Rispondiamo alle vostre domande, che diventano anche il tema in senso lato del nostro quiz. Parleremo di aria calda e fredda, e la nostra domanda è: il ventilatore raffredda l'aria? Prima possibilità, sì, e infatti sentiamo fresco. Ci scriverete sì. No, è l'evaporazione del sudore che genera la sensazione di fresco. E ci scriverete no, Terza e ultima possibilità. Dipende. Se l'aria è fredda, la sensazione è fredda. Se è calda, la sensazione è calda. Ci scriverete dipende. Dove? Al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Ancora una volta ero io il curioso, i viaggi di Luca Cavalli Sforza, scritto da Elisa Frisaldi, edizione Codice, e ne abbiamo appena parlato. Questo libro è offerto da Librerie Rizzoli. In quest'epoca di grandi trasformazioni, e anche speriamo di grandi trasformazioni nel nostro paese, sarebbe quanto mai significativo interessarsi anche della scuola. E tra l'altro qui a Möbius cercheremo di farlo nei prossimi tempi, perché l'istruzione, insomma la didattica in generale, sono cose che possono essere investite da grandi cambiamenti e da iniziative significative. E questa sera ho qui con me Giuseppe Laterza. Buonasera Laterza. Buonasera. Credo che la Laterza Editore sia una realtà italiana ben nota, quindi che non ha bisogno di presentazione. Oltretutto siete anche fortemente impegnati da sempre nell'editoria scientifica. Senta Laterza, sentiamo lei, perché la vostra casa editrice è partita con un'iniziativa verso le scuole italiane, è un primo gruppo di scuole che effettivamente ha un suo tasso di originalità significativo. Beh, provi a accennarcela. Ma sì, è un'iniziativa che abbiamo chiamato Agorà, Agorà Scuola Aperta, e che si svolge in 9 scuole italiane, in 6 città, Milano, Bologna, Roma, Bari e 2 città della provincia di Bari, Altamura e Corato, e che ha come filo conduttore l'incontro con persone competenti di diverso tipo, di diversa disciplina, che possano incontrare nella scuola gli studenti, i professori della scuola, ma anche i cittadini. Agora Scuola Aperta vuol dire una scuola che appunto si apre alla città e diventa un punto d'incontro dei cittadini, diventa compiutamente luogo pubblico. Ecco, al di là, lei dice, dei contenuti, la cosa interessante è far sì che la scuola sia anche un luogo nel quale in generale la cittadinanza va per apprendere culture, conoscenze. Assolutamente, credo che diciamo solo così potremmo dare alla scuola quel ruolo centrale nel nostro futuro, diciamo, come investimento per il futuro della società, che al momento non ha, e non ha anche perché i cittadini non la frequentano, molto poco, soltanto se i propri figli sono a scuola, magari per andare a controllare che i voti non siano troppo bassi. Sentiamo un po' che cosa ci ha detto un mix di personaggi, un cittadino, un insegnante e poi delle voci giovani di ragazzi e ragazze, si riconosceranno senz'altro. Che cosa ci hanno detto al liceo statale Virgilio a Milano? A Milano i due licei coinvolti sono il Virgilio e il Carducci. Sentiamo un po' queste voci. È ottima, ma ne avevo parlato anche durante la campagna per le primarie, ne aveva parlato Boeri e appunto aveva detto che le scuole, lui e naturalmente i vari presidi eccetera, le scuole dovevano aprire anche il pomeriggio, la sera e anche possibilmente d'estate. Beh, è un'ottima idea, anche perché finisce per dare una dimensione nuova alla scuola, non soltanto quello che è lo studio obbligato per noi ragazzi, ma anche di dialogo, di sviluppo di temi di attualità, insomma, è una cosa interessante. Come orario credo che sia giusto, nel senso che faccio una sorta di stacco dallo studio alle 6 e un paio d'ore, sicuramente interessante. I relatori hanno capito benissimo anche il tipo di registro da tenere, di approccio, che non è quello di una lezione professorale, ecco, cioè un approccio serio, rigoroso, ma Redi settimana scorsa ci ha mostrato le frontiere delle scienze della vita, spaventandoci anche un po', che fa anche bene spaventarsi. Quello che si sta facendo qui ora è quello che ci piacerebbe fare in una scuola, si fa cultura, e quello che noi vorremmo avere è delle fonti di cultura alternative magari, ecco. Beh, naturalmente Laterza, però questa può essere anche un'occasione per portare riflessioni, contenuti che magari non è facile che passino attraverso le scuole. Qui sto pensando ai ragazzi, insomma. Sì, noi abbiamo messo insieme relatori e temi sia più direttamente attinenti, diciamo, al lavoro che si fa nella scuola, nella scienza, nella filosofia, nella storia, ma anche abbiamo cercato di introdurre, sempre con un approccio di tipo problematico, ponendo una questione, anche questioni che riguardano l'economia, che riguardano la società, che riguardano la cultura, più in generale interessanti per i cittadini, che si integrino, diciamo, e complementi, siano di complemento ai temi scolastici. Mi pare che abbiate fatto anche una scelta sulla tipologia dei relatori. Sì, noi abbiamo cercato persone che avessero cose interessanti da dire, ma sapessero anche dire in maniera interessante, cioè abbiamo sempre scelto, e finora è sempre stato così, persone veramente brillanti, veramente capaci di parlare a tutti, ma anche non solo chiare ma anche accattivanti, che veramente suscitassero la curiosità di un uditorio molto vasto. Direi che un buon esempio di quello che lei sta dicendo è Carlo Alberto Redi, grosso, bravo, bravissimo biologo dell'Università di Pavia. Qui lo sentiamo in un passaggio della sua conferenza, sempre al Virgilio, nella quale lui ha dedicato molte riflessioni sulla genetica, sulla biologia. Sentiamolo. Abbiamo sequenziato anche il genoma dello scimpanzé. Ne è emerso un dato di grande rilievo. Non è molto distinguibile da quello dell'uomo. Se li ponete dinanzi a un genetista molecolare e questo li sequenzia, non è in grado alla fine di distinguerli, se non dei piccoli polimorfismi. Che cosa ne deriva? Che non esistono le razze. Quando qui in Padania parlano di razze, mi spiace Ciccio, ma torna, ti straccio il libretto, torna alle elementari. Le razze non esistono, punto e a capo, esistono delle varietà melaniche, esistono molte etnie, ma il genoma è lo stesso, è uno, punto e a capo. Che ci fosse già arrivato, qui insomma non è male, il Giordano Bruno, chi vede il ritratto di Elena non vede a pelle ma vede l'effetto, questo è genotipo e fenotipo, per non parlare di Borges, è il grandissimo, della biblioteca di Babele, il numero indefinito e a volte infinito dei volumi, a dire ciascuno di noi è caratterizzato da piccole varianti dello stesso genoma. Con lo stesso genoma potete fare i miliardi e miliardi e miliardi di individui che ci sono sul pianeta. Credo anche che sia abbastanza divertente e simpatico, no? La terza, questo suo accento un po' lombardo ma colto, che si ricava da questo suo breve passaggio della conferenza. In conclusione, allora, la terza, le indicazioni su dove si svolgono nelle città che lei ha citato prima si trovano sul sito www.laterza.it, andando, cercando Agorà. Sì, c'è un sito proprio dedicato che si chiama Agorà Scuola La Terza, dove c'è tutto il programma, ci sono i fuori programma, perché abbiamo anche dei giorni, diciamo, speciali con personaggi ma anche molto diversi, che le posso dire sono stati da Lucio Dalla a Sabina Guzzanti, che ci sarà, Paolo Fresu, fino a Elio Germano, Massimo Populizio, cioè abbiamo coinvolto anche, oltre che scrittori, giornalisti, studiosi, abbiamo coinvolto anche musicisti, attori, proprio per dar l'idea che la scuola è un luogo aperto, è un luogo di città dove vengono a parlare e discutere le persone più diverse con i cittadini. Un bello sforzo, devo dire. Non è stata sì, una roba semplice. È un impegno notevole, ma soprattutto è un happening. Ogni incontro è diverso e questo è molto bello. I ragazzi sono spesso i protagonisti, introducono loro, fanno loro le domande, animano questi incontri attivamente. Questa è una cosa fantastica, il fatto che ci siano insieme a ragazzi e adulti seduti vicino a discutere. Grazie, la terza, e auguri per questo esperimento. Grazie a voi. Una pausa adesso e poi aria calda, aria fredda. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, Pino Donghi, che cosa suonerà Piero Angela? Ma sicuramente jazz, sicuramente, siccome sarà jazz, non si può sapere. Improvvisazione. Sarà un'improvvisazione. È un'improvvisazione, quindi la scaletta verrà decisa probabilmente qualche minuto prima o addirittura in diretta. Sono in linea con Pino Donghi, organizzatore, insieme anche alla nostra Barbara Gallavotti della redazione di Membius, di una serie di appuntamenti a Roma. Il titolo è Quadrivio, quadro, quindi sono quattro? Sono quattro serate fra scienze e musica. Quattro serate fra scienze e musica. Partono questa prossima settimana. Il primo appuntamento quando è? Il primo appuntamento è mercoledì 1 febbraio in Sala Petrassi alle ore 21. Sì. Con, come recita il comunicato stampa, un inedito duetto tra Piero Angela e Danilo Rea, appunto, un jazzista e il nostro divulgatore scientifico per eccellenza. Il quale si presuppone che non potrà fare una brutta figura strimpellando, vuol dire che sa un po' suonare bene, insomma, questo qua. Beh sì, è abbastanza noto che Angela è un ottimo jazzista. Ah, ok. Ma certamente il pretesto è invece quello di parlare del rapporto tra metodo ed improvvisazione, tra scienza e musica, quali elementi sia nel fare scientifico sia nella composizione e nella esecuzione musicale si ritrovino congiunti discutendo tra metodo e improvvisazione, ed è il tema complessivo poi di tutte le serate di Quadrivio. Di Quadrivio. Che ricordo era un rapporto tra musica, astronomia, aritmetica e geometria. Il Quadrivium storico. Quadrivio, certo. Noi incominceremo a seguire questa di Piero Angela perché dobbiamo assolutamente sentire le sue mani sul piano e poi vedremo un po' come andranno gli altri appuntamenti. In realtà poi al di là dello scoop, diciamo così, di Piero Angela al pianoforte, quello di cui si discuterà proprio in relazione al rapporto tra scienza e musica, che probabilmente se la matematica è più affine alla musica di Bach, come è stato ampiamente più volte detto, probabilmente con le avanguardie musicali e scientifiche del Novecento si ha un rapporto forse più stretto, per dire, tra la chimica e il jazz. Ecco, questo sarà un altro tema che si affronteranno mercoledì primo. Molto interessante, difficile da intuire così al volo. Grazie Pino Donghi, buon lavoro. Grazie a voi. C'è quasi tutta la redazione di Möbius qua in studio perché è sta litando. Beh, ma però tu soffi sul microfono, sulla mano, ma anche sul microfono, e tu invece stai alitando, Chiara. Sto facendo delle prove. Stiamo facendo delle prove. Questa domanda qui ha richiesto una presenza la più larga possibile, perché effettivamente è una delle più complesse, se non forse la più strana che ci è arrivata. Cosa dite? Ma infatti, ragazzi, sentite Luca che cosa ci chiede. Ormai quasi 5 anni che non trovo una risposta a questa domanda. Ho chiesto a esperti della fisiologia umana o facendo appello alle poche conoscenze della fisica che possiedo, ma ora che vi ho trovato mi sembrate un'ancora di salvezza. Come mai quando sulla tua mano soffi l'aria è fredda e quando invece ci alzi sopra è calda? Ragazzi, è verissima questa cosa. Questa è da premio Pulitzer, se rispondiamo. Sì, in effetti basta farlo, fatelo voi che ci siete in ascolto, si può fare anche guidando, no? Sì, ma infatti io lo facevo perché il microfono qua è sempre caldo e volevo raffreddarlo. Esatto. No, in realtà abbiamo fatto dei sondaggi anche in mensa e si è detto di tutto, di più. Perché certo, tu dici non togli la mano, la tazza di tè, e funziona pure lì questa cosa. È stato arduo, ma forse, io non voglio dirlo, ma lo diremo a fine blocco, se riusciremo a rispondere a questa domanda. Abbiamo dovuto ovviamente chiamare un fisico, perché questa è una questione di fisica non del tutto banale, tra l'altro. Abbiamo chiamato Emiliano Ricci. Buonasera Emiliano, ciao. Sì, buonasera a tutti, ciao. Sei un collega, perché sei anche divulgatore. Divulgatore, certo. Proviamo, perché abbiamo capito, ovviamente abbiamo parlato con te prima, abbiamo capito che, ed è infatti la cosa interessante, diciamo, che qui c'è una spiegazione tutt'altro che banale. Comincia, dai. Sì, assolutamente. No, la domanda è una domanda che effettivamente richiede una risposta complessa. Rispondiamo alla parte del perché si sente aria calda quando alitiamo. Fondamentalmente l'aria che esce dal cavo orale, quindi dalla bocca, quando alitiamo è aria lenta che va praticamente a depositarsi, a sostituire in parte l'aria che sta nelle zone circostanti le nostre mani, ed è a temperatura più alta perché esce dalla nostra bocca, che quindi ha una temperatura pari a quella del corpo umano, quindi non fa in tempo a riscaldarsi completamente, perché nel processo di inspirazione ed espirazione non riesce a raggiungere i 36-37 gradi, però comunque è sicuramente più calda dell'ambiente circostante. Scusa Emiliano, però va a incontrare l'aria che sta vicino alla mano e che è un po' scaldata dalla mano. È un po' scaldata riscaldata dalla mano, ma in realtà l'aria che esce dalla bocca è sicuramente è più calda, più calda di quella che è, diciamo, in contatto con la mano. Perfetto. Poi esce anche molto vapor d'acqua dalla bocca, che impedisce ulteriore evaporazione dell'acqua dalla pelle, quindi diciamo rimane acqua attaccata e quindi non sentiamo la sensazione di freddo dovuta all'eventuale evaporazione dell'acqua. E invece quando si soffia allora? Quando soffiamo il processo è sostanzialmente questo: soffiando forte noi cosa facciamo? Favoriamo per l'appunto l'evaporazione dell'acqua dalla nostra pelle, e quell'evaporazione è un processo che porta via energia dall'acqua, e quindi dall'acqua che è a contatto con la nostra pelle, e quindi noi sentiamo freddo, perché quello che rimane a contatto con la nostra pelle è acqua e aria più fredda di quella che in realtà c'era prima del soffio. È un po' l'effetto che sentiamo quando si raventa, no? È l'effetto wind, quello che gli inglesi chiamano wind chill, quando si sente le previsioni meteorologiche dicono che la temperatura dell'aria è tot, e però la temperatura percepita è un altro valore tipicamente più basso quando tira vento, proprio perché il vento forte favorisce, diciamo, porta via l'aria che è a contatto con la nostra pelle, quindi ci fa passare aria più fredda, e soprattutto favorisce l'evaporazione dell'acqua, del sudore, quindi dei liquidi che sono a contatto con la nostra pelle. Prima in apertura parlavate comunque anche del tè, facevate l'esempio del tè, lì appunto non si parla di temperatura percepita, perché il tè perlomeno non può dirci se percepisce la temperatura. Lì c'è la questione della velocità dell'aria che noi soffiamo sostanzialmente. Noi soffiando portiamo via l'aria calda che sta sopra il tè, quindi l'aria e il vapore d'acqua che sta sopra la tazza di tè, sostituendolo con aria fredda sostanzialmente. Cioè l'aria fredda intorno precipita velocissimamente lì. Precipita sul tè, si abbassa quello che tecnicamente, cioè lì c'è una saturazione di vapor d'acqua, soffiando forte la pressione di vapor saturo viene spostata e quindi si riesce a far precipitare aria fredda sulla superficie del tè, quindi si raffredda il tè stesso. Quindi tutta una questione di velocità. Ecco, noi nelle diverse ipotesi appunto in sala mensa dicevamo che poteva essere anche, tu dici se sono castronerie, la apertura del pertugio, cioè la bocca quando alito è più aperta, quando soffio è un po' più chiusa. Non c'entra. Questo non c'è. Tremendo. E l'altra ipotesi invece che si faceva era che quando alito l'aria è più calda perché ha già attraversato i miei polmoni, il mio corpo, diciamo, e ha assunto la temperatura del mio corpo. Mentre quando soffio è una temperatura che io butto fuori dalla bocca e non ha ancora, diciamo, percorso le mie vie interne. Perché lei da anni è convinta di avere anche dei polmoni più in alto. Non riesco a... è una sua convinzione. Non è così. Questo non è possibile, ovviamente. L'aria quando la inspiriamo comunque fa un po' di giro all'interno del nostro apparato respiratorio. Okay. Quindi anche quando soffiamo in realtà è aria che è circolata dai nostri polmoni. Sì, non abbiamo quattro polmoni. No. Immensa, come vedi, ci divertiamo tantissimo. E un'altra delle cose che ci dicevamo è: ma se uno soffia invece in uno strumento musicale, tipo un sassofono, dopo un po' che soffia, lo strumento è caldo, almeno nella parte iniziale. Eppure sta soffiando, mica alitando. Certo, no, lì stai soffiando, ma lì c'è una questione legata al fatto che soffi in uno strumento musicale che praticamente ha dei volumi chiusi, delimitati. Quindi soffiando aria nei tubi, nei pistoncini, nei cilindri dello strumento, quello che succede è che tu aumenti la pressione dell'aria all'interno di questi volumi e un aumento di pressione corrisponde a un aumento di temperatura, perché il volume è fissato. Certo. È un po' il gioco che facciamo quando si usa una pompa per bicicletta. Se tappiamo la pompa per bicicletta e proviamo a comprimere, sentiamo sulla punta del dito caldo, proprio perché abbiamo compresso l'aria e quell'aria, visto che il volume lo stiamo riducendo, diventa più calda. Certo, se soffi sul tamburo invece diventerà freddo. Non so se ti interessa, sì, Alberto, chiaro. Però no. Approfitto ancora un attimo di Emiliano, perché ho un'altra curiosità, scusate. Cioè. Forse per il principio che spiegavi all'inizio, anche quando ad esempio sono in macchina, tiro giù il finestrino, metto fuori la mano, anche se fuori ci sono 45 gradi e sono nel deserto del Sahara, sento freddo. È un po' il principio che raccontavi prima. Sì, sì, sì, esattamente. Anche se questo il deserto del Sahara è corretto. Se tu fossi in un ambiente molto, molto umido, dovremmo ragionare un po' sul tasso l'evaporazione. Di umidità e sull'evaporazione, appunto sul fatto se il tuo sudore possa o meno evaporare in un ambiente molto umido. Un ambiente molto umido, come se ci fosse qualcuno molto grande che alita? Sì, diciamo così. Ah, che ci sia un gigante. Un orco. Che un di orco. Cui non ci siamo mai accorti. Sì. Senti Emiliano, qui stiamo arrivando al nostro quiz. Il ventilatore raffredda l'aria, la riscalda, noi la sappiamo la risposta, ma la devi dire tu. Beh, allora, il ventilatore di suo, in prossimità delle pale, la riscalda l'aria, ovviamente. Quello che fa, diciamo, che fa sì che noi si senta la sensazione di fresco quando siamo in prossimità di un ventilatore in movimento, è appunto quello che dicevamo prima, il fatto che il ventilatore sposta l'aria che è a contatto con la nostra pelle e favorisce quindi l'evaporazione del sudore. E quindi l'evaporazione del sudore fa sì che noi sentiamo questa sensazione di fresco. Quindi di fatto la temperatura della stanza, diciamo che aumenta, però se mi metto appiccicata al ventilatore sento fresco. Se stai sudando però, capisci? Se stai sudando, se l'aria è secca, il ventilatore non fa granché. Sì, sì, si possono fare degli esperimenti, per esempio proprio se sei in una casetta nel deserto dove c'è un livello di mancanza di umidità impressionante, tu fai girare il ventilatore e ti arriva aria calda. Senti caldo, certo. Abbiamo altro da chiedergli? No, io ho solo da considerare il fatto che abbiamo parlato di aria calda, aria fredda, ma non è aria fritta. Non è aria fritta. Benissimo. Lui doveva dire questa cosa già da giorni, cioè, te l'abbiamo fatta dire, Emilia. Direi che possiamo andare al traffico più sereni. Oh, però un momento, diamo un'indicazione su come farci arrivare le domande. Per esempio, moebius@radio24.it. Oppure tramite Facebook, ci trovate nella pagina Moebius Scienza, quindi diventate nostri amici, ci scrivete quello che volete. Ecco qua. Eh sì, mi raccomando. E comunque qua di domande ne abbiamo già un po'. Ne abbiamo già a bizzeffe. A che ramo? Ma dunque, c'è chi ci chiede notizie sui chip per i cani. Ecco. Zoologica, quindi zoologia. Poi c'è un altro che chiede se sarà possibile far squillare gli oggetti quando li perdiamo. Tipo, se perdi le chiavi o il telecomando, questo è geniale. Questo sì, è... ma un sacco di tentativi falliti. Vediamo se c'è qualche novità. Categoria tecnologica. Tecnologica. Sì. E poi i disturbi del sonno del signor Francesco. Vabbè, ah, che domanda qui... Non dormo? No, vabbè, ma adesso cercheremo di rispondere a tutti. Quindi scriveteci via mail, via Facebook, come volete. Moebius presenta Nano Channels. Il progetto europeo sulle nanotecnologie. Ritorna la nostra sigla che vi comunica appunto, ma ormai credo molti di voi lo sapranno, che Moebius partecipa a questo progetto europeo Nano Channels, che ha come obiettivo quello di andare a sentire con delle inchieste fatte in diversi paesi europei che cosa pensa la gente delle nanotecnologie, questa rivoluzione tecnologica che già si incomincia a sentire ma soprattutto arriverà moltissimo nei prossimi anni, e però anche a fare comunicazione sugli aspetti più diversi che riguardano appunto questo grande scenario tecnologico. Quando faccio le trasmissioni ho sempre con me Luisa Filipponi. Ciao Luisa. Buonasera. Che fa parte del gruppo di coordinamento di questo progetto europeo con delle funzioni appunto di consulenza scientifica. E abbiamo nostro ospite questa sera anche Fabio Iraldo. Buonasera Iraldo. Buonasera. Professore associato di management all'Università Bocconi di Milano, e proprio per le edizioni Sole 24 Ore lei ha scritto certificazioni ambientali, il che vuol dire che si interessa dal punto di vista sia accademico che di ricerca anche di cose che riguardano appunto l'etichettatura dei prodotti. E infatti questo è il tema, Luisa. Fra le tante cose che si è andati a sentire presso il pubblico con le survey, con le inchieste più diverse, c'è anche una finestra che riguarda questo problema, e cioè i prodotti nei quali sono utilizzate nanotecnologie o possono essere presenti, per esempio, delle nanoparticelle, bene, che cosa si scrive sulle etichette? Possiamo dire a priori che non c'è nessun esperto di nanoetichette, no Luisa? Perché siamo veramente agli inizi, però che cosa già è venuto fuori da queste inchieste? Prima di tutto c'è da dire che non c'è al momento una regolamentazione sulle la necessità di indicare un'etichetta se non per i prodotti cosmetici dal 2013. La domanda che abbiamo posto alle persone che hanno risposto a questo survey online l'anno scorso è stato proprio quello di cosa ne pensassero circa la necessità di avere un'etichetta specifica che identifichi un prodotto di consumo fabbricato usando le nanotecnologie. E il 72-75% dei rispondenti, a seconda dei paesi, risponde sì. E la cosa interessante è che quando siamo andati a chiedere poi che tipo di informazione ritengono necessaria nell'etichetta, viene risposto sia la necessità di un simbolo oppure che i nanomateriali siano indicati nella lista degli ingredienti. E quando poi si è andato, dicevo, a discutere un po' più nel dettaglio appunto la questione di cosa dovrebbe essere indicata nell'etichetta, emergono posizioni abbastanza diverse e soprattutto cade un po' questa necessità di avere un simbolo, in quanto alla fine le persone stesse ci dicevano che un simbolo in realtà è qualcosa di criptico, qualcosa che poi la persona che magari non ha competenze specifiche, che non conosce l'argomento in maniera specifica, in realtà non riesce cosa se ne a fa, capire tu cosa dici, se ne certo, fa di queste informazioni. Certo, certo. Quindi quello che è emerso di interessante in questi focus group è stato proprio la necessità di dare un'informazione in etichetta che però sia significativa per il consumatore e che li metta veramente nelle condizioni poi di fare quello che si dice una scelta informata al momento. E qui viene fuori un bel problema, perché a quel punto quell'etichetta dovrebbe essere un piccolo articolo divulgativo prodotto per prodotto, non è banale. E poi Iraldo, e quindi voglio subito sentire la sua opinione, quello che viene fuori è anche che in altri momenti, facendo le inchieste, la gente in fondo dice: ma per me il criterio principale è sapere chi produce quella cosa che sto comprando, perché a seconda dei marchi mi fido di più, mi fido di meno. Quindi vede, vengono usati altri criteri. Ma qual è, secondo lei, una strategia che si potrà adottare per quanto riguarda le etichette? Ma intanto diciamo che la strategia che si sceglierà di adottare dipende anche un po' dalle possibilità che sono a disposizione nel mondo della certificazione. Io distinguerei per chiarezza semplicemente due scenari che riguardano due aspetti profondamente diversi e determinanti anche nel poi produrre l'efficacia dell'etichetta o del marchio nei confronti del consumatore. In primo luogo occorre interrogarsi su qualunque sia l'obiettivo di trasmissione al consumatore di contenuti o di informazioni riguardanti un prodotto, se sia il caso di scegliere la strada dell'informazione o dell'etichetta volontaria oppure del marchio dell'etichetta obbligatoria. Naturalmente sono soluzioni profondamente diverse. In un caso il produttore volontariamente sceglie di informare il consumatore sull'assenza di determinate sostanze, per esempio ritenute pericolose o particolarmente inquinanti, per rendere il proprio prodotto più accettato dal consumatore. Nell'altro caso è l'istituzione, la normazione che obbliga i produttori che utilizzano certe sostanze a dichiararlo. E questa è una scelta epocale, diciamo. In diversi ambiti si sono scelte strade diverse. In alcuni casi si è scelta l'etichettatura volontaria, pensate semplicemente al caso alimentare e il biologico. In un altro caso si è scelta la etichettatura obbligatoria. Tutti noi abbiamo in mente l'etichetta energetica, per esempio, in cui è obbligatorio per il produttore dichiarare le prestazioni anche in termini ambientali dell'elettrodomestico. La seconda scelta è quella che un pochino emergeva dai risultati dell'indagine. C'è una macro distinzione da fare tra etichetta e marchio, non è esattamente la stessa cosa. L'etichetta per definizione è informativa, quindi contiene informazioni qualitative o più frequentemente dati, indicatori tecnici, che rappresentano quella che è la situazione del prodotto, i suoi contenuti, gli impatti ambientali che avvengono nel processo di produzione. Questo evidentemente per l'uso di nanotecnologie è particolarmente rilevante. Il marchio è un simbolo, è diciamo, un logo evocativo tendenzialmente della caratteristica del prodotto che il consumatore può più facilmente riconoscere e quindi teoricamente dovrebbe poter meglio decodificare quando compie la propria scelta d'acquisto. Il marchio normalmente deve essere spiegato al consumatore, mentre l'etichetta contiene informazioni che possono essere più o meno intellegibili da parte del consumatore, ma il consumatore è autonomo nel decodificare. Deve cavarsela lui o lei, certo. Sì, diciamo di sì. Nel caso del logo, difficilmente il consumatore se la cava da sé. Mi pare di capire, Iraldo, che le due grandi filosofie sono un marchio di qualità che però vuol dire che c'è un authority che dice questo prodotto che contiene nanotecnologie, noi vi diciamo che è sicuro. E l'altro invece c'è tutto l'universo della comunicazione, informazione attraverso le etichette al consumatore che non è banale da gestire. È così, salvo il fatto che anche per le etichette è possibile molte volte prevedere un organismo di certificazione o di convalida di parte terza che dica i dati e gli indicatori e le informazioni contenute in questa etichetta sono vere perché io che sono parte terza rispetto all'azienda le ho verificate. Sì, io avevo una domanda riguardo il concetto che alla fine mettere un'etichetta su un prodotto in qualche modo sposta la responsabilità dalla ditta produttrice al consumatore sulla scelta di acquistarlo o meno, quindi che appunto, come anche lei diceva prima, il consumatore viene messo nella posizione di dover essere altamente informato per davvero fare una scelta informata sull'acquisto, appunto. La segnalazione di un contenuto al consumatore che in qualche modo il consumatore deve interpretare pone il problema della percezione delle informazioni da parte del consumatore stesso. Voi sapete perfettamente che in molti casi le aziende, soprattutto quando hanno a che fare con temi piuttosto delicati che riguardano la salute pubblica, tendono a preferire un'informazione un po' tecnica, ma non necessariamente perché sono in malafede, perché vogliono magari essere il più precise possibili e quindi tendono a trasferire dati che però dall'altra parte sono scarsamente intelligibili da parte del consumatore. Qui ci vorrebbe poi un romanzo d'appendice per spiegare esattamente quali sono le conseguenze e soprattutto per spiegarle a un non addetto ai lavori che evidentemente non ha le competenze tecniche per decodificarli. Ciò che occorre evitare è che da un lato dietro il linguaggio eccessivamente tecnico si nasconda la scarsa volontà di essere trasparenti, dall'altra parte occorre evitare che dietro un linguaggio eccessivamente semplificato si nascondano invece tentativi di rendere la comprensione dell'etichetta troppo agevole da parte del consumatore e quindi deviarlo. Se io dico questo prodotto non contiene una certa sostanza, io ancora qualche tempo fa ho visto delle bottigliette di plastica con su scritto in grande evidenza no PVC. Certo, non contengono PVC, ma il PVC è vietato, è bandito ormai da qualche decennio per quanto riguarda le bottiglie in plastica, quindi è chiaro che questa è un'informazione molto semplice, molto chiara, molto intelligibile dal consumatore, ma distorta, perché non possiamo pensare che quell'etichetta sia migliore di un'altra dal punto di vista della sicurezza della salute del consumatore. Tutte le bottiglie ormai non possono contenere PVC. Certo. Tutto ciò all'interno di un processo, di uno sviluppo, di una tecnologia, questa appunto delle nanotecnologie, che sappiamo potrebbe dare dei grossissimi risultati proprio anche in termini di diminuzione dell'inquinamento ambientale. Però insomma effettivamente adesso siamo in una fase in cui bisogna capire anche qui quali sono i contorni di sicurezza. D'occhio e croce, mi sembra, andiamo a braccio, ve lo chiedo al volo. Io per esempio sono di questa idea. Forse la cosa migliore sarebbe quella di avere un authority che dice abbiamo controllato e mette su un marchio. Potrebbe essere la cosa più corretta. Poi dall'altra parte bisogna che la gente sia informata. Voi cosa ne pensate? Al volo, Luisa. Sì, io sono d'accordo nel senso che ci vuole un authority, ci vuole soprattutto qualcuno che sia in grado veramente di vedere la complessità del fatto che le nanotecnologie sono, diciamo, pervasive in tanti tipi diversi di prodotti, quindi è difficile, veramente direi quasi impossibile fare un discorsi troppo generici, quindi bisogna essere poi andare a vedere i prodotti ognuno per uno. Io faccio spesso l'esempio anche dei prodotti dell'elettronica che contengono fondamentalmente pezzi di nanotecnologia al loro interno, quindi avere un'etichettatura per un prodotto di quel tipo piuttosto che un tessuto è chiaramente sono cose molto diverse. Certo, Una cosa che volevo aggiungere è che nelle nostre survey viene anche fuori il desiderio di essere informati, continuare a essere informati attraverso non solo appunto etichette ma anche programmi di diffusione al pubblico sulle nanotecnologie. Eh sì, la strada è quella. È sicuramente una strada molto importante, sì. Iraldo? Sono convinto assolutamente che le condizioni perché un sistema di marchio o di etichetta funzioni siano la presenza di una certificazione e il fatto e quindi qualcuno che verifica e il fatto che costui sia una parte terza indipendente rispetto al produttore e al consumatore. Questa nell'esperienza di tutti i sistemi di certificazione è veramente la condizione essenziale perché funzionino efficacemente in termini sia di informazione al consumatore sia in termini di incentivo ai produttori ad usare con cautela nuove tecnologie ma usarle laddove queste possano portare dei benefici reali vantaggi. Certo. Terza, per favore non rifacciamo sulle nanotecnologie l'errore compiuto sugli OGM, clamoroso, dove invece le forme di certificazione sono totalmente sregolate, non esistono authority né create ex novo né già esistenti e quindi veramente quel campo. Lo sbando c'è stato, certo. Grazie Fabio Araldo, buon lavoro. Grazie molte, arrivederci. Grazie anche a te Luisa. Grazie a te e alla prossima. Ed io però in chiusura, cari ascoltatori e ascoltatrici, vi dico di darci una mano nel fare questa inchiesta a livello europeo per capire che cosa pensate, cosa il largo pubblico pensa delle nanotecnologie. Allora anche questa volta, l'abbiamo già fatto un'altra volta, se andate al nostro sito www.moebiusonline.eu vedrete proprio nella home page una sezione dedicata a questo progetto Nano Channels. Bene, andate lì e rispondete a un'inchiesta molto semplice, bisogna mettere un X in uno di quattro domande, credo troverete. Andate al nostro sito così ci date una mano, www.moebiusonline.eu. Questo è tutto per questa puntata, ci sentiamo fra 7 giorni.